sale l'ansia, mi deprimo, tutto ciò che sento lo dico, io lo incido sopra un disco, finora non si era mai visto. Cosa c'è che non va? Non si sa, prima o poi sparirà. Nuovo nome, tu lo sai, da oggi chiamami mai. Cambio realtà, cambio identità, tu cambi città. Dove vai, con chi sei, non cambierai. Non dirmi che farai, io lo so già da me. Non si può fingere, metti il cuore dentro una cassa. Ora prendila e buttala in acqua. La zavorra la porta sul fondo, da tempo disteso sul fondo. Raggiunto, scavato quel fondo, tanto che ora sono al centro del mondo. Non mi lasciano più in pace, voci che mi chiamano. Ora voglio stare solo, con la mia solitudine. Quel battito mi assale, viene su dal ventre del mare. Impossibile da fermare, non lo puoi placare. Giudicato, umiliato, emarginato, pagato anche ciò che non hai meritato. Resta muto, stai seduto, tutti pronti al tuo prossimo acuto. Non ti do più una soddisfazione perché non ho nessuna intenzione di assomigliare a te. Mi vuoi allerta, attento, sveglio. Voi cose fate bene, io le faccio meglio. Dita puntate, occhi addosso. Cazzo guardate, la spia lampeggia sul rosso. Volo in caduta libera, ora la mente libera. Non credo più a una virgola, al veleno di una vipera. Le mie parole fanno male, perché nessuno le sa interpretare. La mia storia non ha fantasia, piuttosto è condita di magia. Non mi lasciano più in pace, voci che mi chiamano. Ora voglio stare solo, con la mia solitudine. Non mi lasciano più in pace, voci che mi chiamano. Ora voglio stare solo, con la mia solitudine. Voci che mi chiamano, ora voglio stare solo, con la mia solitudine.